Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, benvenuti alla puntata numero 103 di Restiamo Animali. È giovedì 4 luglio e questa è la prima puntata della edizione estiva 2013. Per tutta l'estate, fino al ritorno del palinsesto autunnale di Controradio, andremo in onda solo il giovedì mattina alle 9.30 con una puntata lunga all'incirca un quarto d'ora. Quella di oggi è la prima occasione nella quale ci riproponiamo gli ascoltatori di Controradio dopo la scomparsa di Margherita Hack, la grande scienziata che è stata una grande amica di Restiamo Animali. Abbiamo avuto l'occasione di intervistarla e è stata al nostro fianco nelle campagne che abbiamo lanciato per la tutela degli animali selvatici minacciati da ordinanze di amministrazioni locali toscane. Per ricordarla vi riproponiamo l'intervista andata in onda nel settembre scorso e che abbiamo realizzato nella sua casa di Trieste. Margherita in questa intervista parla del suo rapporto con gli altri animali. A seguire avremo un servizio della nostra Roberta Marino che ha intervistato quattro attivisti reduci dall'ultima campagna oceanica di Sea Shepherd, l'organizzazione che con la sua flotta contrasta le navi baleniere negli oceani. Margherita Hack ha compiuto 90 anni il 12 giugno scorso, prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia e abiterà la volta celeste per sempre perché un asteroide è stato chiamato col suo nome. In prima fila per i diritti delle donne, baluardo dell'antifascismo a favore della laicità dello Stato, campionessa di salto in alto e salto in lungo, è animalista e vegetariana da sempre. Margherita vive a Trieste assieme a suo marito Aldo, 8 gatti e un cane. Qual è il ricordo più lontano che ha della sua sensibilità animalista? Vicino a noi c'era un podere dove avevano le mucche e quando le levavano il vitellino le mucche seguitavano a piangere, a belare, a muggire per settimane nella nostra fenosa. Ci ha detto che nella sua vita ha sempre convissuto con altri animali, soprattutto cani. Ci può raccontare qualche storia dei cani più importanti della sua vita? Il primo cane che ho avuto è stato un cucciolo di lupo e lo sentivo piangere, guaire nella strada davanti all'osservatorio. Andavo a vedere, lì c'erano tre ragazzi e lo tenevano legato con un filo elettrico e che cercavano di fargli mangiare una sboba che lui rifiutava. E aveva un occhio sanguinato, aveva una zampa rotta, insomma faceva una gran pena, era spaurito, sudicio. Gli chiesi se me lo vendevano e me lo portò a casa e ci volle un po' di tempo perché si rinfrancasse. E però poi cominciò a giocare col frisbee, il disco volante, e io e Aldo ci si tirava fra noi e lui si metteva nel mezzo e malgrado la zampa a toppa saltava a volo, ne prendeva anche 5, 6, 7 in bocca tutti insieme e ogni volta prendeva un disco faceva una specie di giro d'onore in giardino, sempre il solito, tant'è vero a forza di passarci ha lasciato un sentiero che si vede ancora oggi. È vissuto parecchio per un lupo, 13 anni e 4 mesi, gli ultimi mesi aveva perso l'uso di tutte le gambe, stava sempre a dormire sotto la tavola, sul tappeto, bisognava lavarlo, pulirlo, dargli da mangiare, fargli tutto insomma. E poi l'ultima notte cominciò a lamentarsi tanto, allora si chiamò il veterinario e si addormentò. Poi dopo questo hanno avuto altri, perché dopo si è avuto un cane se ne può più fare o meno, e si andò a prendere una bastardona al canile, una bastarda di un Rottweiler e di un mastino, sai, era buonissima. Venne a casa, quando si andò a letto la sera, e c'era la porta a vetri, era chiusa, si era rizzata in piedi e voleva aprire a tutti i costi. Entrò dentro, si mise sul letto, sdraiata accanto a me, stette immobile tutta la notte. Era malata già di filaria, cioè quella malattia che le zanzare depositano le uova nei polmoni dei cani. Ci morì un giorno in macchina, si stava portando dal veterinario. E poi ho trovato da Lilli un bracchetto cristiano che si trovò in un paesino della Slovenia. Era uno scheletro vivente e si lasciò prendere dentro in macchina sotto la sedia del guidatore. Anche lei vissuta con noi, era una dolcissima, affettuosissima, però era sempre affamata. Forse il ricordo della fame aveva patito e si buttava su tutto e lo trovava fuori per terra. E deve aver mangiato un'esca per topi, perché cominciò a sanguinare. Dopo 10 anni stava con noi, se ne è andata anche lei. Poi ora ci sta Zacchi, un volpino biondo, ora c'ha 14 anni, si è preso, aveva 1 anno, è intelligentissimo, è un cane con cui si può davvero parlare e si sta a sentire con gli occhi attenti. È un carattere molto diverso dalla Lilli. Quando si rimprovera e si dice cattivo, ha fatto qualcosa non doveva fare, digrigna denti, tutto arrabbiato, fa gli occhi cattivi. Mentre invece la Lilli, quando si rimproverava, metteva la coda fra le gambe, la buttava giù per terra, somigliava proprio. Anche di gatti ormai ci se ne ha 8 ore, ma ho sempre avuto gatti, ho sempre notato, sono tutti uno diverso dall'altro. Anche lì il mio primo gatto ha fatto con me e le scuole dalla seconda media fino al terzo anno d'università, sempre studiava sulle mie ginocchia. E poi una notte di febbraio sparì, era la notte di febbraio, quindi l'epoca in cui i gatti fanno l'amore, perdono ogni prudenza e probabilmente avrà fatto una brutta fine. Professoressa Hack, restiamo animali? Certo, restiamo animali, siamo animali. Melody, the memory of love you free. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Operation Zero Tolerance, ovvero tolleranza zero nei confronti della baleneria illegale giapponese che va a cacciare le balene nel santuario dei cetacei. Quindi questo era il nostro obiettivo, non permettere loro di uccidere le balene nel loro santuario. Per me è stata la prima campagna, è stata un'esperienza che potrei riassumere in un'unica parola: incredibile. Sotto tutti i punti di vista, dall'incredibilmente bello il posto in cui ci siamo trovati a operare, all'incredibilmente brutto quello che stava accadendo lì e quindi il motivo per cui siamo andati là, e quello che ci è accaduto proprio direttamente come flotta di Sea Shepherd attaccata in maniera aggressiva dai balenieri. In 2 diverse occasioni la Nissin Maru, che è la nave fabbrica della flotta baleniera, aveva bisogno di fare rifornimento, e per tentare appunto di avvicinarsi alla nave cisterna ha praticamente speronato la Bob Barker un paio di volte, e quindi quella è stata una cosa un po' incredibile. Fa impressione vedere una nave da 8.000 tonnellate che ti viene addosso quando tu sei su una barchina da 450 più o meno tonnellate, che è la Bob Barker, e che quindi sicuramente era nelle condizioni anche di affondare la nave se avessero voluto. Quando Sea Shepherd decide di andare in Antartide per contrastare i balenieri, carabinieri giapponesi in via generalmente tre navi, quest'anno quattro perché abbiamo una nuova nave nella nostra flotta, la St. Simon, mentre i balenieri dall'altro lato hanno cinque imbarcazioni, la Nishimaru, la nave fattoria o nave fabbrica, tre navi arpione che sono quelle che uccidono le balene e poi una nave scorta, la Shonamaru numero 2, che dipende direttamente dal governo giapponese. È stata una campagna di grosso successo perché i balenieri sono riusciti ad uccidere 103 balene su 1035 che loro vogliono uccidere, cercano di uccidere ogni anno, per cui noi di contro abbiamo salvato la vita di 932 balene. Dal 1986 è in vigore una moratoria internazionale secondo cui le balene, molte specie di balene sono a rischio estinzione e quindi sono animali assolutamente da proteggere. In più l'Australia una quindicina di anni fa decise di istituire un santuario dei cetacei in acque australiane antartiche. Nonostante ciò i giapponesi, i balenieri giapponesi ma anche islandesi e norvegesi decidono ogni anno di uccidere sul migliaio di balene. Perché? Perché in questa moratoria non è menzionata, è menzionata solo la caccia commerciale ma non nella caccia a fini scientifici. Quindi quello che loro hanno fatto dal 1986 è scrivere sui lati delle navi ricerca e inviare la loro flotta, come hanno fatto fino al 1985, per uccidere appunto balene. L'unica cosa che serve per poter far parte dell'equipaggio delle navi Sea Shepherd è la passione e l'amore per gli animali e per gli oceani in generale. Tutto quello che io conosco adesso di mare e come lavorare su una nave l'ho imparato sulla Steve, grazie ai vari nostromi e veterani delle navi e alla mia testardaggine probabilmente. Questa Operation Zero Tolerance è stata la mia settima campagna. Tre campagne in Antartide, due nel Mediterraneo, una alle Isole Faroe e una nel nord dell'Australia per questa operazione Kimberley Minimby, per proteggere la più grande area dove si riproducono le megattere. Quest'ultima campagna è stata indubbiamente il più grosso successo, è stata una campagna molto diversa perché le tattiche utilizzate da Sea Shepherd sono state molto meno aggressive, è stata più un quasi occupare quelle zone intorno alle navi delle baleniere giapponesi, rendendo impossibile le loro attività appunto sanguinolente. Ricordo a un certo punto aver sentito un SOS lanciato dalla Bob Barker che veniva schiacciata da due lati, da due navi enormi, e in quel momento è stato molto forte perché ho pensato che eravamo arrivati proprio al limite, però l'adrenalina e la passione per la ragione per la quale fai questa cosa ti fanno andare avanti e superare ogni paura, penso. Siamo a un passo dall'inizio di Operation Relentless, che sarà questa nuova campagna in Antartide che è già stata annunciata proprio per far capire al mondo che fino a che loro andranno noi siamo pronti comunque ad andare e a cercare di fermarli anche quest'anno. Marianna Baldo, Restiamo Animali? Restiamo Animali. Paolo, Restiamo Animali? Ovviamente Restiamo Animali. Raffa, Restiamo Animali? Restiamo Animali. Josh, Restiamo Animali anche per te? Assolutamente Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.